Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con David Coco, protagonista del film Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, al cinema da giovedì 2 luglio 2020. David, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti voi. Come lo descriveresti in breve a chi ci ascolta? Forse un film che può ricordare i film anni 70, i film di inchiesta, i film di natura politica, un film che cerca di fare su fatti sui quali magari non del tutto è stata fatta luce, ecco. Quindi un film indubbiamente di grandissimo interesse, anche e soprattutto perché racconta la storia di, io credo, uno dei più importanti uomini politici, uomini che hanno portato avanti un impegno fondamentale nel cambiamento della Sicilia in particolare, ma in prospettiva anche di una politica nazionale. Come sei entrato a far parte del progetto? È stata una scelta appunto di Aurelio Grimaldi, mi chiamò e raccontò, diciamo, il progetto che aveva in mente e mi vedeva giusto per interpretare il personaggio di Santi Mattarella. E io dissi: ah, va bene, grazie, io ti ringrazio molto, e sarà una bella sfida dover raccontare un uomo così carismatico. Quindi ho preso la sua proposta con grande gioia e nello stesso tempo con un certo senso di responsabilità. Come avete lavorato al personaggio? Considera che per motivi lavorativi più volte ho raccontato la storia siciliana, cioè avvenimenti accaduti appunto nel contesto della mia regione, che poi diventano un po' i prodromi di altro, di decisioni poi in un campo molto più largo, e quindi mi era capitato di imbattermi nella figura di Piersanti Mattarella, ma obiettivamente io avevo letto di cose riguardanti Mattarella, avevo anche cercato di vedere ciò che di video era disponibile. Per quanto riguarda il lavoro in sé, proprio di interpretazione, è come se io volessi cercare quel fuoco che mi potesse permettere di raccontare l'uomo che è Santi Mattarella. Aurelio Grimaldi, che tipo di materiale aveva a disposizione per ricostruire sia il contesto che la vicenda umana? Credo il materiale disponibile, mi viene da dire, tutto ciò riguardante Piersanti Mattarella fosse disponibile, anche per quanto riguarda poi il dopo, cioè le inchieste che vennero fatte, indagini e poi anche tutto ciò che è passato in giudicato, immagino. Tutto questo, poi sai, sullo specifico di ciò che Aurelio avesse come fonti, sinceramente magari in questo non sono del tutto addentro, però alla fine il mio lavoro si basa soprattutto sulla sceneggiatura, su quello che poi alla fine io devo raccontare, la storia che noi raccontiamo. Che impressioni ne hai ricavato dal personaggio e anche dall'impianto filmico? La volontà è quella di ricordare una figura che è stata colpevolmente dimenticata, una figura, io dico, fondamentale, molto significativa per un cambiamento politico-amministrativo sicuramente della Sicilia, ma anche del panorama nazionale, perché comunque Piersanti Mattarella continuava l'opera che era stata di Moro, quindi in qualche modo di apertura della DC a un possibile dialogo appunto con il PC. Quindi l'atmosfera del film è assolutamente quella. Quello che si ricava appunto è una figura estremamente onesta, per bene, che ha portato avanti con tutte le difficoltà le proprie opere riformatrici. Pensa che, per esempio, nelle mie letture ci sono state delle cose che mi sono rimaste particolarmente impresse, come per esempio il titolo del quotidiano L'Ora, che uscì il 7 gennaio 1980, quindi il giorno successivo all'omicidio di Mattarella, titolava appunto "Un uomo onesto, un democristiano diverso". Quindi si parla di questo, il fuoco è su un politico vero, cioè su un uomo che davvero aveva delle grandissime capacità politico-amministrative, era una persona estremamente competente, Mattarella. Quindi è quella la figura che passa, cioè un uomo che per la prima volta in Sicilia andava a mettere in discussione tutti gli interessi affaristico-mafiosi che veramente erano consolidati in Sicilia, e in tutto questo appunto da un partito che era il partito più forte, cioè quello che in qualche modo aveva particolari connessioni con questo sistema qui. Quindi ancora di più è, come dire, la pervicacità di un uomo che non vuole, che vuole cambiare il partito, per esempio, in Sicilia, che vuole portare avanti un'opera di moralizzazione della politica. Nel film emergono chiaramente i ruoli dei neofascisti, della mafia e di una certa area della Democrazia Cristiana. Quello che fa impressione nei sottotitoli finali, una parte della sentenza del processo Andreotti, che da una parte è l'ammissione di una sconfitta, dall'altra parte è un'indicazione di colpevolezza. Beh sì, perché fondamentalmente in quel caso si parlò di prescrizione, quindi significa che erano i termini della giustizia che non condannavano. Beh, indubbiamente anche appunto poi successivamente fu abbastanza evidente che l'omicidio Mattarella si poteva sottendere a movimenti terroristico-mafiosi massonici. Poi indubbiamente Mattarella andò appunto, come dicevo prima, a scardinare delle sclerotizzazioni proprio del sistema amministrativo affaristico siciliano, tant'è vero che Mattarella durante la presidenza della regione portò avanti appunto la legge regionale che andava ad abbattere l'indice massimo di edificabilità, la legge sulla revisione dell'albo regionale per quanto riguardava gli appalti, significava ridimensionare una quantità molto vasta di imprese appaltatrici, la legge sulla programmazione economica, proprio la volontà appunto di andare a razionalizzare la spesa pubblica, farla diventare sempre più trasparente. Tant'è vero che nel film, per esempio, un nodo cruciale dell'opera di Mattarella proprio in quel periodo fu quello di bloccare i 6 appalti per le 6 scuole pubbliche a Palermo. Poi Palermo era una sorta di fortificazione dorata per gli interessi mafiosi, cioè lì avevano un bacino abbastanza congruo di liquidità. Quindi andando a bloccare quei 6 appalti, che si capisce che poi alla fine erano riferibili a un'unica persona collusa con la mafia, andava a bloccare i flussi d'ingresso della liquidità della mafia. Ecco, per questo il delitto Mattarella è rimane uno fra i più eccellenti delitti eccellenti di quel periodo lì nella storia siciliana, cioè dal 77 ai primi anni 80. Quando furono colpiti appunto Boris Giuliano, Terranova, poi venne ucciso Costa successivamente, quindi quel periodo lì. Fondamentalmente aveva capito che per andare a scardinare determinate modalità mafiose si dovevano andare a fare le indagini patrimoniali, no? Poi quello che poi alla fine fece Falcone successivamente, quindi andare a individuare i flussi finanziari, cioè appunto fare chiarezza in quella sorta di labirinto che erano quei movimenti lì. Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi al cinema da giovedì 2 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento al protagonista David Coco. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie a voi, grazie a te, ciao. Con Ascanio Petrini, regista del documentario Tony Driver, nei cinema, nelle sale virtuali da giovedì 25 giugno 2020. Ben trovato. Ben trovati voi, grazie per l'invito. Come lo descriveresti in breve? È una storia vera che si confonde con l'immaginario cinematografico di tante persone della mia generazione che sono cresciute guardando film americani, tra western è roba girata ai confini del mondo. È una storia vera che parla però di un uomo che ha vissuto una vita molto più simile a quella di una sceneggiatura da grande tipo hollywoodiano, che con una certa dose di tenerezza cercherà di rimettersi sulla linea del ritorno a casa. Come hai conosciuto questa storia? Perché vivo in un paese turistico sul mare, polignano a mare, e a un certo punto è stato sconvolto dall'arrivo di questa figura che, come in un film, è arrivato e ha trovato riparo in una grotta, si è trasferito a vivere in una grotta. Per quanto poi lo si vedesse in giro, sempre perfettamente rasato, pulito, aggiustato, ha suscitato l'interesse un po' generale, fino a che l'ho scoperto anch'io che viveva in quella grotta. Come hai deciso poi di filmarlo e come lo hai convinto? All'inizio ho cercato di filmarlo per accumulare un supporto mediatico che mi aiutasse a scrivere una sceneggiatura di finzione, però poi rivedendolo in video ho visto che Pasquale aveva già di suo troppi caratteri cinematografici, fisici e caratteriali, che gli davano l'impressione di essere un attore navigato, cioè mi davano l'impressione di avere a che fare con un attore navigato. E ci ho visto anche delle similitudini con dei feticci della cinematografia, che sono Will Coyote o Travis Bickle di Taxi Driver, e quindi ho deciso di fare un documentario, quindi con una persona vera che si muovesse come un attore, il documentario sembrasse metà film, metà documentario. Conoscendolo e passando del tempo con lui, che impressioni ne hai ricavato? Ho ricavato che l'impressione è che nettamente la realtà supera di gran lunga la finzione, molte volte delle cose che scritte non hanno senso e non riescono a sembrare vere. Raccontate da chi le ha vissute e le sono successe, ti fa dire ok, il cinema è bello perché è così, è a confine tra la verità e la finzione. Ho imparato che la vita ti può riservare sorprese. Come dice Pasquale, shit happens, è una frase che lui ripete spesso, però poi tutto si può sempre riaggiustare nel verso giusto. E vedendo quel muro di separazione tra Stati Uniti e Messico, che clima hai respirato? Il clima dell'artificiosità, perché io vivo in un punto di mare che di fronte c'è il mare e dall'altra parte c'è l'Albania. Avevo 10 anni quando ho vissuto sulla mia pelle il fenomeno dell'emigrazione, immigrazione, gente che arrivava a ricerca di qualcosa, e tutto mi è sembrato naturale vivendolo sulla mia pelle, perché c'era una divisione naturale tra qui e lì, c'è il mare. Invece vedere questo muro nel deserto, che già di suo è una divisione naturale, così mi ha fatto capire molto di più gli Stati Uniti, che sono artificiosi anche nella naturalezza delle cose, quindi sono capaci di mettere il muro nel deserto. Comunque voglio dire a proposito di questo che il nostro film non sarebbe più potuto farsi adesso, perché adesso Trump sta costruendo il muro anche sulle montagne, perché la zona desertica di confine lì è deserto e montagna. Allora, dove c'è il deserto piatto costruivano il muro, e sulle montagne lasciavano fare alla natura. Adesso Trump sta costruendo il muro anche su quelle montagne, e quindi cambierà radicalmente il paesaggio. E la gente come lo vive, soprattutto al di là del confine? Io ho notato che sul confine i paesi sono un po' e un po', come tutte le zone di confine. Quindi Mexicali, per esempio, vuol dire Messico, California, o Calexico, che noi conosciamo come gruppo musicale, sono città che vogliono dire California, Messico. E sono molto i confini prossimamente vicini, sono molto in relazione. I bambini messicani la mattina vanno a scuola in America, tornano a casa. Il problema diventa nelle zone più interne, da dove provengono le varie droghe o tutto il resto, che poi arrivati al confine devono passare per forza. Però io ho visto una cosa non come la raccontano i media, così troppo divisa, sì, cioè è divisa visivamente, però le persone che vivono in Messico hanno la disponibilità di andare negli Stati Uniti quando vogliono, ammesso che rispettino delle linee comportamentali. Il protagonista, piuttosto che tornare e ricostruirsi una vita nella sua terra d'origine, preferisce rischiare il carcere. Perché quello che sta vivendo nel suo presente, quello che vive nel suo presente, era una specie di carcere. Il confino, cosa che anche io ho vissuto sulla mia pelle per la prima volta in questa quarantena, ma non è proprio una condizione comune che si prova sempre. E alla fine Pasquale, una persona a cui viene negato di poter tornare in quella che tu ritieni la tua terra, è una forzatura al confine, esagerata, anche perché per 10 anni, per continenti, quindi è una mossa disperata la sua. Questa decisione di uscire sia in on demand che in sala? Io ho studiato storia del cinema, credo che rivista col senno di poi sarà epocale questo passaggio, perché neanche quando hanno inventato la TV hanno scardinato il primato della sala cinematografica per un film che deve uscire adesso, quindi adesso stiamo sfondando questa linea. Non è troppo epocale come evento per giudicarlo. Io così dico che è giusto lasciare alle persone che ormai fanno quello che vogliono, se lo vogliono vedere a casa magari se lo scaricano, quindi è giusto dare la possibilità a ognuno di fare quello che vuole, quindi se oggi vuole andare al cinema lo va a vedere al cinema, se solo vuole vedere comodamente a casa perché ha speso 15.000 euro per la TV, beato lui, può farlo. Adesso sono d'accordo. Tony Driver nei cinema e nelle sale virtuali da giovedì 25 giugno 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Ascanio Petrini. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, spero che vi piaccia il film, andatelo a vedere, mi raccomando che i film piccoli vanno sostenuti. Con Rolando Colla, regista del film Quello che non sai di me, on demand da mercoledì 1 luglio 2020. Rolando, ben trovato. Buongiorno. Come lo descriveresti a chi ci ascolta? È la storia di una donna ticinese che ha 2 figlie di 2 uomini diversi, che ha bisogno di un rapporto più stabile e che incontra un africano che sale dalla Calabria, si innamora, si sposano, ma poi lui viene arrestato e non capisce il perché e scopre poi man mano che lui era in contatto con gente sempre africana in Svizzera che trafficava droga e il loro amore viene messo alla prova. Questo direi è la storia. Com'è nato il progetto? Il progetto nasce perché c'è realmente un caso simile in Svizzera dove un africano viene accusato di essere, diciamo, ecco, nell'ambito del traffico di droghe e che poi viene costretto a fare una specie di confessione contro sua volontà per ricevere una riduzione della pena. E il caso mi sembrava particolarmente interessante proprio anche a livello politico, perché c'è questa forma, diciamo, di standard diverso applicato alla gente di colore. Rispetto a questa vicenda di cui sei venuto a conoscenza per la realizzazione del film, su quali aspetti hai voluto centrare l'attenzione? Beh, effettivamente un rapporto tra 2 persone viene influenzato naturalmente dalle realtà politiche e sociali e questo mi interessava far capire che alla fine questa donna che è la protagonista deve fare i conti anche con quello che viene deciso a livello politico, non è solo l'amore che lei sente per lui, cioè tutto si mette in questione e comincia a andare in crisi. Quindi nella fortezza Europa l'atteggiamento verso i migranti è un po' lo stesso ovunque? Sì, si tratta proprio di una forma di dignità che forse per noi è difficile capire, ma per un africano la dignità è una cosa molto importante e se lui deve ammettere una cosa che non ha fatto per ottenere una riduzione di pena è in questione la sua dignità e perciò non lo vuole fare. Nella nostra storia poi lui lo farà per poter stare con lei credendo che lei sia incinta di un figlio suo e scoprendo poi quando esce che lei nel frattempo l'ha abortito. In fase di scrittura com'è stato il lavoro? Avete anche interagito con persone che sono rimaste coinvolte direttamente in queste vicende? Sì, il caso reale era stato Zurigo e l'avvocato che conoscevo aveva come 500 pagine su questo dossier di 500 pagine e gli ha fatto chiedere all'africano coinvolto di liberarlo, di darmi questo dossier e perciò aveva una base di prove, di informazioni, di documenti che hanno naturalmente aiutato molto a scrivere questa storia. La Svizzera che fenomeno migratorio conosce? Beh, la Svizzera meno persone deve accogliere, c'è una, come per il resto per tutta l'Europa, c'è una grande diffidenza che questa gente voglia approfittare del nostro sistema, che non sia qui per delle ragioni giustificate, e c'è naturalmente un atteggiamento molto duro. Questa scelta on demand di distribuzione? Questa è una scelta che fa il coproduttore italiano Emanuele Speca, che della Solaris, che diciamo ha tutte le possibilità sue, sono sue decisioni, sue scelte di uscire con questo film in questo modo, che io apprezzo molto perché è importante non tenerlo nel cassetto. Comunque il territorio italiano è in mano al coproduttore italiano e il film è una coproduzione maggioritaria svizzera con l'Italia e la Repubblica Ceca. Rolando Colla, regista del film Quello che non sai di me, on demand da mercoledì 1 luglio 2020. Il regista Andrea Adriatico sul suo film Gli anni amari, al cinema da giovedì 2 luglio 2020. Andrea, ben trovato. Buongiorno, anzi buonasera, anzi buon pomeriggio. Eccomi qua. Ti faccio subito i complimenti, un film coraggioso e un film politico, presentacelo tu. Ma è un film su un giovane ragazzo, nato negli anni 50, che muore nell'83 a poco più di 31 anni, esattamente il 12 marzo, che è la data di uscita del film, che nonostante il coronavirus ho, come dire, combattuto e con tutto me stesso per mantenere con l'uscita in sala, e non per irresponsabilità, perché credo che comunque sia giusto tutelarsi e tenersi alle regole di questo paese che in materia di salute pubblica deve saperne molto più di me, povero cineasta, però credo che quella data simbolica, se c'è la possibilità di uscire anche a capienze ridotte, valga la pena affrontarla, perché è un film che racconta di noi. Raccontiamo un po' il personaggio Mario Mieli. Mario Mieli è un personaggio che Roma probabilmente, almeno come sentito dire, ben conosce, perché la capitale dedica proprio a Mario Mieli il circolo gay più famoso che ha. Ma Mario Mieli è milanese, un giovane milanese, figlio di una famiglia industriale comasca, di origini ebraiche e che ha anche un forte legame con l'Egitto, perché il padre aveva delle origini egiziane, che a un certo punto della sua vita comincia, uscendo dal liceo Parini di Milano, uno dei licei più importanti per la formazione delle nuove classi intellettuali e politiche della Lombardia industriale degli anni 60 e 70, inizia ad incrociare dei salotti molto particolari nella Milano di quegli anni, quindi entra a contatto con Fernanda Pivano, con Corrado Levi, con la cerchia dei poeti, quindi con Milo De Angelis, Franco Buffoni, quindi è un personaggio che in qualche modo inizia a costruirsi la propria identità. Diventa fondamentale il viaggio che lui fa a Londra per studiare l'inglese, che era una tradizione appunto della famiglia Mieli, inviare i suoi figli, i giovani figli, ad aprirsi all'Europa. E proprio nel viaggio a Londra incrocia il Gay Liberation Front, quindi quando nel 1972 Torino con Angelo Pezzana inizia a tirar fuori questa meravigliosa rivista del Fuori, la prima rivista del movimento omosessuale in qualche modo, e si lancia verso Sanremo per opporsi a un convegno di psichiatri che proprio a Sanremo rimbeccava le leggi, le regole per iscrivere l'omosessualità come malattia. Ecco che Mario Mieli si congiunge ad Angelo Pezzana, si porta dietro tutta l'esperienza delle sue relazioni internazionali e c'è il primo grande momento del movimento gay italiano, bloccano il convegno buttando delle bombette puzzolenti sulla sala del casino e lì nasce il movimento omosessuale italiano. In qualche modo quella è una data che viene individuata come la partenza politica e visibile. Erano anni molto particolari, quindi poi Mario Mieli continua e prende altre derive dopo anni di politica. di elementi di critica omosessuale, che è il suo saggio più famoso, e possiamo immaginare cosa potesse dire pubblicare nella collana più prestigiosa dell'editore più prestigioso un libro sugli studi di genere, dove inizia a diventare molto evidente la poetica di Mario Mieli, che non è certamente esclusivamente quella di un paladino dei diritti dei gay, ma inizia a diventare un paladino del concetto di libertà per tutti, che è la cosa che in assoluto mi affascina di più. Una persona che potesse, in un momento storico in cui il diritto alla felicità era al centro del pensiero delle persone e di un movimento politico, quello del 77 fortissimo, Mario Mieli ricentra la questione dicendo che l'educastrazione a cui siamo sottoposti deve trovare l'individuo in una forma libera per esprimere se stesso, indipendentemente da sessualità o da condizioni di coercizione. Ovviamente un messaggio molto complesso che anche lo stesso movimento gay fa fatica a recepire, e arrivano gli anni bui, cioè la seconda parte, la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, in cui Mario Mieli si incupisce un pochino, entra in contatto con tutta un'altra serie di questioni interiori, scrive un romanzo magnifico che si chiama Il risveglio dei faraoni, che è la storia della sua famiglia riletta in chiave egittologica, mi verrebbe da dire, quindi riscrive praticamente sotto forma misterica tutta una serie di relazioni. Questo libro viene messo sotto contratto da Einaudi, ma fa scandalo, la famiglia si oppone fortemente alla pubblicazione, lui va a Torino, straccia questo contratto, rientra a casa a Milano e si uccide. Ci sono due questioni che mi stanno a cuore rispetto all'oscurantismo intorno alla sua figura. Una parte proprio dal libro, ecco, il libro fu editato, una pubblicazione clandestina in qualche modo. C'è una pubblicazione clandestina, okay, che però avviene dopo diversi anni dalla morte di Mario Mieli, perché ovviamente i detentori dei diritti si sono trincerati dietro al fatto che Mario Mieli avesse stracciato questo contratto e quindi avesse dato un segno manifesto di non desiderare la pubblicazione di quel romanzo. Invece quel romanzo viene pubblicato in forma clandestina, di nuovo viene bloccato con un'azione legale, per cui circola clandestinamente, ma non è mai stato pubblicato davvero. Quindi le copie della piccola casa editrice che provò a pubblicarlo sono state mandate al macero, ne esistono delle tracce, qualche copia in giro, devo confessare che una ce l'ho anch'io, ed è un romanzo meraviglioso, meraviglioso. In questo momento l'attenzione per Mario Mieli è tornata molto alta, io spero anche un po' grazie al mio film, ed è uscito appena adesso per Marsilio un libro curato da Paola Mieli e Massimo Prearo che si chiama La Gaia Critica, che contiene tutti i suoi scritti e parte delle poesie, oltre a un libro bellissimo di Silvia De Laude. Ma ci sono delle circostanze narrative che rendono Mario Mieli davvero un personaggio in grado di fare il punto sugli studi di genere, di un'attualità incredibile. Non a caso è tradotto in tante lingue proprio adesso, anche in Francia è appena uscita la nuova edizione di Elementi di critica omosessuale, quindi, come dire, c'è un interesse rinnovato per una persona che è stata davvero sottoposta al gioco del silenzio, è stato proprio cercato in maniera, mi verrebbe da dire, consapevole di cancellarlo e rimuoverlo, ed è un personaggio che invece ha lasciato tracce infinite, perché pensiamo che nel 78, quindi mentre l'Italia è sottoposta alla questione del rapimento del Presidente del Consiglio Aldo Moro, la sua uccisione, la stagione più sanguinosa del terrorismo, Mario Mieli viene inviato dalla Rai TV ai cancelli dell'Alfa Romeo di Arese a discutere di sessualità con gli operai, ricalcando un pochino quello che aveva fatto Pasolini con Comizi d'amore. E in questa intervista sulla sessualità, che è reperibile, è qualcosa di meraviglioso, è davvero la fotografia di un momento storico messo lì, e la Rai permetteva ad un giovanissimo Mario Mieli di andare a fare questa intervista in tacchi a spillo con una tutina da operaio bianca e un filo di perle e un garofano nel taschino, quindi segno di un'apertura completamente differente. Il declino della figura di Mario Mieli arriva appunto nell'83, quando muore, esattamente nel mese di marzo, cioè nel mese di marzo in cui esce su Frigidaire il primo articolo di Giovanni Forti, che era un giornalista dell'Espresso e collaborava con Frigidaire, che poi morirà di AIDS. Esce il primo articolo italiano sull'AIDS, chiamato Cancer Gay. Quindi è proprio la sua vita, chiude un'epoca, una stagione di sogno, di libertà, di rivoluzioni sessuali, di possibilità. E quindi, come dire, non è il Milk italiano, è il teorico della libertà sessuale ed della libertà espressiva in Italia. L'altro segno dell'oscurantismo intorno alla sua figura è il fuoco di fila che hai dovuto affrontare per la realizzazione di questo lavoro. Beh, sicuramente, com'è possibile immaginare, se un intellettuale di questo tipo è stato tenuto così tanto nel cassetto e così lungamente dimenticato, non è un caso. Mario Mieli è stato anche un irriverente animatore del teatro sperimentale di quegli anni, faceva delle performance in cui mangiava merda senza eufemismi, quindi c'era questo atto di coprofagia di nuovo da inquadrare nel suo delirio esoterico, quindi l'idea era quella di trasformare le feci in oro, quindi c'era tutto un costrutto molto particolare che era tipico degli anni 70, perché non ci dimentichiamo che nel 75 Pasolini quasi termina Salò, dove lo stesso il discorso della coprofagia diventa un tema poetico, no? Erano anni forti, e se escludiamo questi passaggi, la stessa cosa negli elementi di critica omosessuale viene contestata moltissimo una sua frase in cui parla della sessualità dei bambini, che ha permesso ad alcuni di definirlo il profeta della pedofilia, quando Mario Mieli con la pedofilia non ha nulla a che fare, ma quella frase era in base in un libro saggio teoretico di estetica, si riferiva ai tre saggi sulla sessualità di Freud. Credo che lo sappiano anche veramente i bambini, che Freud parli della proprietà di un'identità sessuale già a partire dal secondo anno di vita, quindi è stato molto mistificato. Quando è uscita la notizia che dovevo fare questo film, è successo il finimondo, ovviamente, si sono scatenati un po' tutti, ho girato seguito da articoli di giornale velenosissimi, ma io non mi sono curato. Il film è per tutti, la commissione nazionale ha determinato che sia un film per tutti, come doveva essere, ed è il racconto della storia di un ragazzo che si è preoccupato di non inseguire l'agio e il benessere della propria famiglia, che avrebbe potuto offrirgli una vita senza pensieri, ma si è preoccupato di porre delle coordinate di riflessione perché la nostra società possa essere un pelino più giusta, un pelino più sopportabile, anche per chi non è nella norma. Abbiamo una stima relativamente alle sale, in quante sale sarà? La stima che io ho ad oggi è che esce abbastanza bene in tutta Italia, arriva anche a Palermo, a Cagliari, quindi insomma nelle situazioni delle isole che magari non erano immediate con questo tipo di progetto, ma ovviamente non ho dati su due regioni importantissime come la Lombardia e il Veneto, che al momento vivono ancora questo atto di stordimento. La cosa molto bella è che ci sono dei festival, tipo il Lovers di Torino, il Festival a Firenze e il Sicilia Queer Festival, che dedicano a questo film delle anteprime, prima dell'uscita in sala, uscendo anche dalla loro programmazione abituale, quindi dalle loro date abituali, e che accolgono questo film, segno che probabilmente è necessario recuperare una storia che è la storia della, tra virgolette, politica della diversità, che è una storia scritta sull'acqua di cui l'Italia purtroppo non ha avuto la capacità di fare memoria, come è successo per esempio in altri paesi. Quindi quello che oggi chiamano il Milk italiano, in realtà, senza nulla togliere a Harvey Milk, che è stato un personaggio per me straordinario e sostanziale per la libertà delle persone che vivono negli Stati Uniti e non solo, Mario Mieli è stato anche un ideologo, ha portato in là un discorso sui diritti che è molto più avanti dei discorsi che facciamo oggi, di cui spero la questione del film avrà semplicemente il desiderio a qualcuno di andare a vedere cosa scrivesse realmente. Per seguirlo ci lasci tutti i riferimenti internet? Sicuramente Gli Anni Amari ha un sito che si chiama appunto gliannamari.it, il distributore è I Wonder Pictures, che è sempre iwonderpictures.it, e i produttori sono cinemare.it, raicinema.it e Pavarotti International, a cui devo un'immensa gratitudine perché ha veramente sostenuto il progetto con grandissima forza. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto. Il regista Andrea Adriatico sul suo film Gli Anni Amari, al cinema da giovedì 2 luglio 2020. Il regista Federico Bondi sul suo film Daphne su RaiPlay da mercoledì 1 luglio 2020. Federico, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Lo raccontiamo brevemente? Sì, allora, Daphne è una donna con la sindrome di Down. Quando sua madre muore improvvisamente, deve occuparsi anche di suo padre, oltre a tentare di elaborare il suo stesso dolore, in due parole proprio. Com'era nata l'idea? Guarda, tutto è nato da un'immagine avuta nel traffico, mentre ero in coda, vedo due figure immobili alla fermata di un autobus che mi colpiscono, un padre piuttosto anziano e una figlia, evidentemente, con la sindrome di Down, che si tenevano per mano. Quindi tra i chiavai, i passanti, queste due figure, appunto, mi sono sembrate come due superstiti, quasi due eroi, direi. E da lì, la sera stessa, ho cominciato a interrogarmi su chi potessero essere. Sono entrato in una materia, dentro una materia sconosciuta fino a quel momento, per cui ho frequentato associazioni, ho parlato tanto con adulti, ragazzi, bambini, anziani, con la sindrome di Down e soprattutto con i genitori, con psicologi, finché non ho avuto la fortuna poi di incontrare Carolina Raspanti, che è l'interprete, la protagonista, Daphne, appunto. E come avevi deciso di approcciare questo mondo anche prima dell'incontro con la tua protagonista? No, l'incontro con la protagonista è stato decisivo. È stato decisivo anche nella fase di scrittura della sceneggiatura. Quindi è lei che mi ha regalato la materia umana, altrimenti no, probabilmente non sarei mai stato in grado di farlo da solo. Ecco, il carattere di Daphne è tutto dentro quello di Carolina, per cui, capito, io attingo dal suo vissuto, dai suoi racconti. Daphne parla come Carolina, spesso anche per luoghi comuni, per stereotipi, ma il suo modo di esprimersi spesso, diciamo, tende a semplificare le cose, ma allo stesso tempo le enfatizza, per cui il più delle volte si spiazza proprio per questo. Lei ama, vive con la musica, per esempio, musica pop, per cui spesso parla proprio come un testo di una canzone della Pausini o di Neck, cuore, anima, amore, ma lo fa a ragion veduta, non a caso. No, sul linguaggio, insomma, abbiamo lavorato cercando di essere proprio fedeli, ecco. È lei si esprime così. Poi per la sceneggiatura, lei però non l'ha mai letta. Non gliel'ho mai data da leggere, non sapeva nulla di questa storia, capito? Io le spiegavo la scena, la posta in gioco della scena, le davo le battute che imparava a memoria velocemente, perché non è un'attrice e quindi avresti sentito sempre l'intenzione, e quindi poi quelle battute però lei se le ritrovava, capito? Le suonavano familiari, dato che erano le sue poi. In parte già ce lo hai detto, però quali sono gli aspetti della sua personalità che più ti impressionano? Beh, prima di tutto le risorse che ha. Ogni cosa per lei è una conquista, non ha bisogno di niente. C'è una scena, per esempio, nel film in cui il padre le vuole dare delle pasticche per non piangere, poi è un ansiolitico, e lei scaraventa questo barattolo, dice: no, io voglio piangere, perché conosce il potere liberatorio del pianto, c'è una pillola per qualsiasi cosa, lei non ha bisogno di nulla, perché trova nell'affetto degli altri, di chi le sta intorno, colleghi al lavoro, amici di una vita, il padre. Trova forza, trova coraggio e lo dimostra quotidianamente, per esempio con questo bisogno che ha del contatto fisico, dell'abbraccio. Un abbraccio con lei può durare 10 minuti, capito? Mentre un abbraccio in media quanto può durare? Un abbraccio con le persone, no? Sì, 2 secondi, 3 secondi, ed è terapeutico, ti assicuro. Per cui non è facile in due parole descriverla, è una forza della natura. suoi limiti sono anche le sue risorse. Infatti, fin prima di si porta dietro tanti temi come la diversità, il bisogno dell'inclusione che abbiamo, che hanno, ma non c'è solo questo. Il film vorrebbe parlare anche e soprattutto dei nostri limiti, del bisogno di ricominciare, della voglia e della capacità che abbiamo, ognuno di noi, al di là della sindrome. Ho cercato, capito, di raccontare, di sviscerare il rapporto tra quelle due figure di cui ti parlavo prima. Ecco, questo era quello che mi premeva. Federico, hai detto che hai frequentato il mondo legato alla sindrome di Down. E come ha accolto questo film? Direi estremamente bene. Ci hanno dato il patrocinio e quindi contiamo molto sul loro aiuto. Tra l'altro l'associazione quest'anno compie 40 anni e festeggiano questo compleanno con un Down Tour, con un camper che toccherà tante città italiane e il film accompagnerà questo viaggio, per cui per noi è sicuramente una base solida, importante e ci puntiamo molto. Proiezioni accompagnate dalla tua protagonista? Sì, è un film che va accompagnato, la mia protagonista da spettacolo, prima delle proiezioni, dopo. Faccio un esempio a Berlino, dove abbiamo vinto il premio Cipresci della critica, della stampa internazionale, è riuscita a dire davanti a una platea immensa: signori, questo film è bellissimo, stupendo, un capolavoro. Io rispondo: no, non è un capolavoro, Carolina, siamo ben lontani dal capolavoro. Ti dico che è un capolavoro, lui si ride. Capito? Lei quello che pensa dice, e quello che pensa fa, però, anche a differenza mia, che mi do delle, lei è dentro queste regole, dentro questi binari, e ci sta, no? Coerenza, no? Io spesso invece mi do delle regole per infrangerle. È un esempio, è un grande esempio per tutti, e sul set lo ha dimostrato, arrivava a colazione prima di cominciare a girare, no? Sembra un soldato, parla come una maestra, è davvero molto divertente. Altra cosa per commentare, appunto, il premio, torno su a Berlino a ritirarlo e lei mi chiama, vabbè, gioia pura, si può immaginare, e poi a un certo punto mi dice: comunque, Federico, il merito è anche suo. Capito? E io l'ho trattata come l'ho sempre trattata, per cui gli ho detto: ma come, e sei in 5 settimane di riprese, la pratica te la sei sbrigata, io sono anni che ci lavoro, notti, sabati, domenica, e ora però, capito, va a dire, invece dice, il merito, così da nulla, il merito è soprattutto di Federico. Sembra che l'abbia indottrinata in qualche modo. Vabbè. Daphne, un saluto e un ringraziamento al regista Federico Bondi. E io ringrazio voi, grazie Federico. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Crepi, ciao Federico, ciao. Grazie ancora, davvero, ciao. Il regista Federico Bondi sul suo film Daphne su Rai Play da mercoledì 1 luglio 2020. Con Elisa Misto, regista del film Stay Still, su miocinema.it dal 2 all'8 luglio 2020 e poi in sala e nelle arene. Elisa, ben trovata. Grazie. Come lo descriveresti in breve a chi ci ascolta? È la storia di due giovani donne, molto diverse, ma in realtà probabilmente entrambe alla ricerca di una realtà diversa da quella che vivono. Una è un'infermiera in una clinica psichiatrica, una è una paziente nella stessa clinica, si incontrano e da questa amicizia nasceranno varie avventure che sconvolgeranno un po' il loro mondo, metteranno in discussione quello in cui credevano. Ed è un ritratto di una generazione molto particolare, secondo me, abbastanza disillusa e allo stesso tempo però non ancora con una carica, come dire, rivoluzionaria che gli permetta di cambiare veramente quello che non approvano della nostra società. Dove nasce, come nasce il film? 12 anni fa, perché ci ho messo molto tempo a farlo e a finirlo. Nasce perché io ho girato un documentario, è stato il mio primo lavoro importante, documentario in 4 cliniche psichiatriche, e passai all'epoca 2 anni praticamente a fare la ricerca e le riprese all'interno di cliniche psichiatriche, e avevo raccolto un sacco di impressioni, di storie, di personaggi, di riflessioni che mi avevano toccato molto, e quando era stato il momento di fare l'application per la scuola di cinema a Londra, dovendo scrivere una storia, una sceneggiatura, avevo deciso di prendere appunto da questa esperienza, e quindi è nata il canvas della storia. Quindi i tuoi personaggi hanno dei tratti di realtà? Le due protagoniste in realtà no, nel senso su quelle sono veramente personaggi nati dalla mia fantasia, mentre invece tutti i personaggi secondari, soprattutto i pazienti, quelli devo dire sono stati veramente molto influenzati dall'esperienza che avevo fatto. Alcuni personaggi, ad esempio come quello di Giuseppe Battiston, è quasi un ritratto di un paziente che avevo conosciuto in una clinica durante le ricerche, che mi aveva affascinato tantissimo. Che esperienza è stata? Che impressioni ne hai ricavato da questo tuo viaggio nelle cliniche psichiatriche? All'epoca mi aveva impressionato moltissimo. La cosa che più forse mi aveva impressionato e ha cambiato la mia opinione sulla malattia mentale e anche sul modo di curarla è la sorpresa di trovare delle cliniche psichiatriche più accoglienti di quanto non si immagini. Da un certo punto di vista, siccome abbiamo ancora questa immagine dell'ospedale psichiatrico violento, loro non lo sono più, dall'altra però sono luoghi di attesa, quasi di silenzio, in cui in realtà si aspetta che il paziente, soprattutto se ha avuto magari problemi anche di violenza, che si calmi, che le problematiche, magari le tensioni che ci sono state al di fuori della clinica, quindi in famiglia, si attenuino. Ma non viene offerto tanto di più, viene offerta una cura basata sui farmaci, in parte una cura della parola, anche se abbastanza blanda, e di fatto però per il resto si aspetta, perché come la malattia faccia un po' il suo corso, un po' si calmi, come un'onda, no? Che poi si riabbassa di nuovo per poi lasciarli andare di nuovo, ma in realtà non c'è un modo per sconfiggere la malattia o quella, no, che ci si immaginano rivelazioni nei colloqui con lo psichiatra che risolvano all'improvviso i problemi del paziente, quello non c'è, e quindi ho trovato come un mondo sospeso, completamente al di fuori delle regole che regolano la società all'esterno, e quello l'ho trovato molto affascinante, anche se naturalmente molto malinconico. Sulla base di questa esperienza, su quali aspetti hai voluto centrare il tuo film? Il tema principale l'ho combinato con un pensiero che da un certo punto di vista mi assilla da tantissimi anni, che è quello della non produttività, di quello dell'essere consapevole, almeno dal mio punto di vista, che viviamo in una società basata sul consumo ma anche sulla produzione, e quindi in parte anche sull'essere vincenti, sul fare cose, sul produrre anche dal punto di vista creativo. E invece a questo opporre una necessità invece di lentezza, di calma, in parte anche di vuoto, forse in parte anche di più spiritualità. E questa è una cosa che mi ha sempre dato molto da pensare, mi ha fatto sempre molto riflettere sul fatto che non sia possibile nella nostra società, di quante pressioni abbiamo invece di dover fare per forza qualcosa. E quindi ovviamente, avendo avuto questa esperienza nelle cliniche psichiatriche, di trovare questo vuoto, questa attesa, e trovare questi pazienti che non solo erano pazienti psichiatrici, ma alcuni di loro erano anche quasi consapevolmente all'esterno della società, si ponevano in contrapposizione, non volevano più partecipare. Quindi ho unito, come dire, questo pensiero che mi segue da tanto e l'esperienza che ho fatto nelle cliniche psichiatriche, e come dire, ho dato il là, l'atmosfera al film. Questa scelta distributiva in digitale, in sala e nelle arene? Ma questa per me in realtà

cartoni animati faremo anche, domenica ci sarà anche incastrato Roger Rabbit. Per tutte le informazioni ci dai dei riferimenti internet? Assolutamente sì, o su Facebook o su Instagram al profilo Sunset Drive-In, oppure direttamente sul sito sunsetdrivein.it si può fare l'acquisto dei biglietti online. Perfetto. E con la scelta del posto. Sunset Drive-In a Roma, Cinecittà Studios, a partire da venerdì 3 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento al promotore Matteo Leurini. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto, Matteo. Grazie, grazie mille, vi aspetto. Con Chiara Valenti Omero, direttrice della 21esima edizione di Shorts International Film Festival, quest'anno sul web dal 4 al 12 luglio 2020. Ben trovata. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, ribuongiorno Federico. Buongiorno. Buongiorno, beh, è allora, l'appuntamento fisso ormai, grazie. Per anni ci siamo sentiti come maremetraggio, e ora ha cambiato denominazione. Raccontaci un po' tutto di questo festival. Beh, insomma, di fatto sono già 7 anni che ci chiamiamo Shorts International Film Festival, pur avendo mantenuto l'associazione Maremetraggio, ovviamente è l'associazione che organizza Shorts International Film Festival, e la sezione Maremetraggio è quella dedicata ai migliori corti da tutto il mondo, per cui diciamo che insomma non abbiamo abbandonato assolutamente, anche perché non avrei potuto, visto che sono 21 anni che mi occupo del festival. Quest'anno interamente online, perché per forza di cose, beh, insomma, ci siamo ritrovati in pieno lockdown con la selezione in piedi, e i vari curatori delle varie sezioni stavano vedendo tutti i film. Io ero molto ottimista ed ero convinta che l'estate avrebbe spazzato tutti i problemi legati al virus, che ancora evidentemente non avevamo capito di quale portata fosse, per cui insomma non avevo dubbi sul fatto di realizzare l'edizione come sempre, e invece a metà maggio abbiamo dovuto prendere questa decisione legata al fatto che prima di tutto il comune a Trieste non ha allestito tutte le piazze che solitamente allestiva in estate per mettere lo svolgimento degli spettacoli, il mio come quello di tanti altri, insomma, quindi diciamo che è stata una decisione molto sofferta. Francamente avrei fatto volentieri un'edizione con il pubblico dal vivo, anche se chiaramente in numero totalmente ridotto, perché tu lo sai che abbiamo una piazza da 1000-1200 persone, ovviamente sarebbe stato comunque impossibile oggi come oggi, ecco. Però tutto sommato non ci lamentiamo, anzi, perché questo nuovo modo di fare festival ci sta, è un po' una sfida, ci sta facendo scoprire aspetti nuovi del nostro lavoro, e anche, perché no, vedere degli obiettivi che potrebbero un domani essere comunque degli obiettivi condivisibili, anche con una forma tradizionale di festival alla quale ovviamente cerchiamo tutti di tornare nel più breve tempo possibile, perché ci manca il pubblico. Certo. Come sarà organizzato online? Ma allora, online, noi in stato iniziamo il 3, però il 3 e il 4 sono due giornate dedicate allo short speaking training, quindi è proprio un momento di formazione, chiaramente su selezione dei progetti selezionati, dei progetti che ci hanno inviato i ragazzi da tutta Europa, per cui quella è una cosa non aperta al pubblico, ecco, ovviamente, in collaborazione con Nisimasa. Di fatto il 4 iniziamo, le proiezioni si svolgeranno tutte su mymovies.it, saranno in pratica insomma un po' riproposto il format tra virgolette tradizionale, nel senso che abbiamo anche immaginato che fosse i primi di luglio la gente si può uscire, e quindi insomma abbiamo cercato di replicare quella che sarebbe insomma la proiezione tradizionale del festival, quindi le sezioni che sono maremetraggio, nuove impronte che sono invece i lungometraggi, tra l'altro da quest'anno con un ampliamento ad uno sguardo europeo, non più solo italiano. La sezione ESOF quest'anno, che è una novità legata a questo grande evento scientifico che abbiamo a Trieste ai primi di settembre, e poi le sezioni dei bambini si svolgono tutte sulla piattaforma. E oltre che a lì, le persone avranno 24 ore di tempo per poter visionare i film, e tra l'altro anche votarli, perché ovviamente c'è continuano ad esserci i premi del pubblico. Oltre a questo ci saranno le masterclass, ci saranno gli incontri speciali dedicati al premio Cinema del Presente, al premio Prospettiva, ci sarà il focus sull'animazione dell'Estonia, per cui insomma ci saranno tantissime cose alle quali bisognerà per vedere registrarsi, andando direttamente dal nostro sito, poi si verrà trasportati sul sito di My Movies, ci si registra e poi chi avrà la registrazione e l'accredito avrà accesso a tutta la settimana di festival. Nel complesso quanti saranno i lavori ospitati? Tra cortometraggi delle varie sezioni e lungometraggi arriviamo quasi un centinaio. Solo della sezione maremetraggio sono 45, poi c'è vabbè, il film di apertura che è Il Grande Passo, ci sono le sette nuove impronte, ci sono i corti ESOF, i corti dell'Estonia, i corti dei bambini e dei ragazzi, per cui direi che arriviamo sicuramente a un centinaio di film. Ci lasci tutti i riferimenti web? Certo, basta andare su www.maremetraggio.com, troverete il programma, il catalogo che sarà scaricabile online ovviamente, quindi www.maremetraggio.com, bisognerà cliccare sul pulsante in home page, si finirà sulla pagina di short dedicata sulla piattaforma My Movies, lì ci si registra, si riceve un codice e con quel codice si accede per tutti i 9 giorni di festival. Shorts International Film Festival, 21esima edizione, sul web dal 4 al 12 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Chiara Valenti Omero. Chiara, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A prestissimo, grazie mille, a presto, seguiteci. Con Mario Sesti, uno dei curatori di Cinema al Mazzi, che riprende dopo il periodo di blocco dal 2 al 14 luglio 2020. Mario, ben trovato. Grazie, anche a voi, finalmente. Finalmente, ci eravamo sentiti proprio per lanciare Cinema al Mazzi, c'è stato un lungo periodo di chiusura totale e adesso si riprende per il finale. Raccontaci un po'. Beh, innanzitutto cambia la location perché sarà lo spazio antistante al Maxi, che peraltro è uno spazio, per chi conosce la zona, l'area, lo frequenta, molto vissuto da famiglie, bambini, intellettuali, ragazzi che studiano ai tavolini del bar, eccetera. Lì ci sarà per l'appunto l'arena, ma tra le varie attività del Maxi ci sta il completamento di Cinema al Maxi, che vede fondamentalmente il 14 luglio ci sarà la premiazione finale, che vedrà tra i titoli di Cinema al Maxi per l'appunto 3 tipi di premiazione, nel senso ci saranno dei premi decisi dagli studenti, penso sono stati più di 100 studenti tra l'Italia e l'Abruzzo ad aver visto i nostri documentari e ad aver determinato un premio. Poi ci saranno i premi decisi dalla giuria ufficiale presieduta da Daniele Lucchetti, che vedeva la giornalista specializzata in arte della Greco, il direttore di festival Pedro Arbosita, il critico Raffaele Melale che capeggia il sito di Quinlan, l'artista Nico Vascellari e la presidente stessa del Max, cioè Giovanna Melandri, e anche lì ci sarà una premiazione. E poi c'è la cosiddetta platea competente che insomma dopo diversi anni di Extra Doc si è ormai formato una pattuglia di appassionati che sono ora studenti, ora insegnanti, ora bibliotecari, perché viene fatta anche in collaborazione con le biblioteche di Roma, che vedrà per l'appunto assegnare questi premi al miglior documentario edito e al miglior documentario inedito, perché come forse ricorderai questi 10 film, 5 sono scelti tra film che sono già messi in luce in qualche festival italiano o straniero. L'ultima proiezione infatti si farà per l'appunto con L'ultimo prospero, il documentario dedicato a Turiferro che era stato alla Festa del Cinema, e poi con 2 scatole dimenticate e anteprima italiana di Cecilia Mangini, una veterana, diciamo così, autrice del documentario italiano, e un giovane Pisanelli, che peraltro è stato appunto a Rotterdam e quindi è l'anteprima italiana ufficiale dopo l'isolamento del Covid, diciamo così. E poi il 7 invece ci sarà per l'appunto questa prima edizione del video essay festival, come diceva Andrea Minucci. Il video essay è questo genere che ha creato una platea molto interessante di pezzi di cinema che dovrebbero essere dei saggi, ma spesso sono anche delle cose molto divertenti, che sono le recensioni più popolari su YouTube. Io e Andrea Minus, che lavora all'Università di Studi, abbiamo deciso di creare proprio un festival, questa è la prima edizione, e il 7 ci sarà il programma completo con 10 video essay che abbiamo scelto da tutti quelli che sono arrivati da noi, e anche lì ci sarà una giuria, per l'appunto, formata da Laura Di Piccoli, da Giorgio Cosetti, dalla produzione Camilla Rest e anche da Giovanna Pelandri, che stabilirà i 3 migliori video essay. Credo che per Roma questa iniziativa corrisponda, per l'appunto, a una autentica ripresa di tutte le attività, e quindi un pochino ritorno alla normalità nelle varie iniziative di estate romana, con una location, quella del Maxi, che è diventata ormai, diciamo così, un classico delle iniziative di natura culturale, anche per tipo di versatilità, libri, film, parte anche musica, spettacoli teatrali, oltre all'attività naturalmente di scelta, cura, mostra dell'arte contemporanea. Il cinema, come tutti i linguaggi contemporanei, fa parte naturalmente di questo spettro dell'attività, ed è forse grazie o a causa del Covid che questa parte finale per la prima volta si terrà in questa parte della città, diciamo all'inizio dell'estate, poi estate piena, e grazie e all'aperto fondamentalmente. E tutti i riferimenti per la programmazione, chiaramente, sia il sito internet del Maxi che Fondazione Cinema, esatto. L'iniziativa è curata da Fondazione Cinema per Roma e la Fondazione del Maxi, la collaborazione che ormai è quasi decennale, con due istituzioni che, pur lavorando su sponde diverse, hanno trovato un punto di equilibrio e di integrazione che credo faccia bene non solo ai linguaggi di cui si occupano, ma anche al pubblico che può usufruire di un ventaglio di iniziative che prima non esistevano fondamentalmente. La conclusione del programma di Cinema al Maxi dal 2 al 14 luglio 2020, un saluto e un ringraziamento a Mario Sesti. Mario, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie per venire, a presto. Con Sabrina Baracetti, direttrice artistica del Far East Film Festival 22 Online Edition su mymovies.it dal 26 giugno al 4 luglio 2020. Sabrina, ben trovata. Ben trovato a te, a tutti gli ascoltatori. Noi siamo praticamente pronti, è un'edizione assolutamente unica questa qui dal Far East Film Festival datata 2020, l'abbiamo definita una sorta di rivoluzione storica, perché effettivamente abbandoniamo per un anno quello che è il grande schermo del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, anche tutto il red carpet, la partecipazione dei filmmakers asiatici, però guadagniamo tantissimo sul fatto che allarghiamo la nostra comunità di spettatori, perché saremo appunto online, soprattutto per quanto riguarda gli spettatori italiani, perché il programma è ricchissimo, sono 46 i film da 8 paesi, ci sono 5 prime mondiali e 4 film che verranno mostrati soltanto in un orario preciso, per cui 4 film che sono, potremmo definirli, i 4 film evento di questa edizione, per cui c'è un'atmosfera completamente diversa, ma cercheremo in tutti i modi di simulare quella che è stata, insomma, la caratteristica storica del nostro festival, cioè la possibilità di incontrare tantissimi ospiti asiatici, per cui avremo anche dei live streaming, avremo tantissimi videomessaggi dei nostri beniamini che ci hanno comunque sostenuto in questa volontà di mantenere vivo il festival anche e nonostante tutto quello che è successo in questi ultimi mesi in tutto il mondo. Rispetto alla selezione, che caratteristiche avete tenuto a mantenere per questa online? Più che mantenere, abbiamo voluto azzardare certe scelte diverse, nel senso pensando proprio ad un pubblico e ad una fruizione del pubblico diversa, che è quella naturalmente della rete. Per cui, ad esempio, abbiamo scelto quest'anno volutamente di fare un approfondimento su un autore giapponese che è un attore di cinema estremo, se vogliamo. Lui si chiama Watanabe Hirofumi e che c'entra veramente poco con la filosofia del festival, però il festival ha sempre, in tutti gli anni, cercando anche delle deviazioni rispetto a quella che è la strada maestra del cinema di genere. Per cui Watanabe, in questa edizione online, ci sta benissimo. Per cui abbiamo scelto quattro film recentissimi. Lui è una sorta di autore appunto punk, perché non è iscrivibile a nessun tipo di modello, in qualche modo per noi ricorda la fase primitiva, ecco, diciamo, non primitiva nel senso negativo, la prima fase del cinema di Jim Jarmusch, perché le scelte estetiche sono molto forti, è un cinema in bianco e nero che ha appunto questo atteggiamento sicuramente molto eccentrico, che potremmo definire punk, e un umorismo veramente che lascia un segno nello spettatore. Quindi Watanabe Hirobumi, l'abbiamo chiamato poeta comico del quotidiano, e sarà uno degli approfondimenti tematici e anche, insomma, la volontà del festival di lanciare un nuovo nome in Occidente. Quali sono le tematiche più forti e più diffuse tra i film proposti? Difficile fare una generalizzazione in questo senso, i film come sempre appartengono a diversi generi, per cui abbiamo la presenza del fantasy, abbiamo la presenza della commedia, molti film parlano di gioventù bruciate, come ad esempio Better Days, che è un film che vi consiglio perché l'abbiamo proprio scelto come film di chiusura, e quindi lo mostreremo una volta soltanto, sabato 4 alle ore 21. Direi che, insomma, ci sono anche i film che riflettono sulla situazione del mondo, come ad esempio il film d'apertura, che in qualche modo ci racconta anche cosa sta succedendo in Corea del Sud e cosa sta succedendo in Corea del Nord, naturalmente con il filtro della fiction, ma in qualche modo anche una rilettura del quotidiano. I paesi più vivaci dal punto di vista cinematografico? Sicuramente la Corea del Sud, lo sappiamo, non è certo una novità, siamo nell'anno della vittoria assoluta di Parasite, per cui questo ovviamente si sente, la Corea del Sud è ancora una cinematografia forte, originale, che ha dei valori produttivi altissimi, e la selezione di quest'anno con 10 titoli lo conferma ancora una volta. Per noi, cioè per chi frequenta Udine, non è certo una novità, nel senso che in 20 anni di festival abbiamo proprio raccontato come la cinematografia della Corea del Sud si fosse evoluta e avesse anche raggiunto dei risultati importanti per raggiungere poi al risultato più incredibile della storia, cioè l'Oscar per il migliore film, non il migliore film straniero, per il migliore film di tutti i tempi, non in lingua inglese. Per cui questo lo vedremo anche quest'anno, cioè questa predominanza, questa assoluta qualità del cinema coreano. Ma come sempre anche c'è Giappone, che è più forse orientato su film che sono un po' più piccoli come produzione, che sono un po' più intimi. E a fianco c'è il grande ritorno, a nostro parere, dell'action di Hong Kong, per cui siamo molto contenti anche di questo. Ogni singola giornata come sarà strutturata? Iniziamo la mattina presto con un caffè con, quindi una sorta di live streaming con alcuni ospiti, alcuni esperti, che durerà pochi minuti, con il primo film proiettato, diciamo così, siamo ancora a questi termini, alle ore 11, poi ci sarà un film alle ore 15, uno alle 17.30, e la fascia, diciamo, prime time è quella delle ore 21. Ma, sorpresa, c'è anche la fascia della notturna che inizierà alle ore 23, per cui ci sono 5 film al giorno per chi vuole seguire appunto il programma, il calendario che noi suggeriamo, ma voglio anche ricordare che tutti i film sono disponibili per tutti i giorni del festival senza orari, cioè nel senso come se fosse proprio una piattaforma svolta. Far East Film Festival 22 Online Edition su mymovies.it dal 26 giugno al 4 luglio 2020. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Sabrina Baracetti. Un abbraccio in bocca al lupo e a presto. Grazie a te. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.